Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. È una delle più importanti fiere mondiali sul tema del vino. Parliamo del Vinitaly, che inizia domenica 7 aprile e si conclude giovedì 10. Il settore del vino è, per l'economia della nostra regione, uno di quelli trainanti in assoluto, in particolare per il settore agroalimentare, anche perché ormai gran parte del vino prodotto nel Veneto, soprattutto nel Veronese e nel Trevigiano, prende le strade dell'estero. Molti si troveranno a passare per i grandi padiglioni della Fiera di Verona nella prossima settimana, siano essi operatori del settore o semplici appassionati di un buon bicchiere di vino, o anche semplici curiosi. Abbiamo pensato di dedicare questa trasmissione di questa settimana in particolar modo a questi ultimi. In particolare abbiamo invitato un sommelier a darci qualche suggerimento su come avvicinarci a questa manifestazione, il Vinitaly, e magari anche a come ritagliarci qualche percorso originale di degustazione. Salutiamo quindi Andrea Fabio, che è coordinatore triveneto della FISA, la Federazione Italiana Sommelier Albergatori e Ristoratori, nonché responsabile nazionale dei corsi di comunicazione e degustazione della stessa associazione. Andrea, quello che volevamo un po' sapere è, innanzitutto, perché è così importante questa manifestazione e perché il vino è così importante? Questa manifestazione è abbastanza peculiare perché, a differenza di tante manifestazioni specifiche di settore e quindi più dedicate agli addetti ai lavori, permette di mettere assieme sia un pubblico di professionisti, quindi produttori, enologi, agronomi, ad un pubblico di appassionati semiprofessionisti come i sommelier o di semplici cultori del vino che quindi cercano in questa fiera degli elementi che non troverebbero in altre. In effetti, girando per i padiglioni di questa fiera, si vede un numero enorme di persone che si avvicina a questi stand e ci sono sia operatori ma anche veramente curiosi o semplici appassionati che trovano proprio la possibilità di fare come un giro attraverso cantine, tutto un percorso in un posto unico, e quindi questo forse è anche uno dei motivi del fascino di questa manifestazione, poter veramente girare da una regione all'altra, da un paese all'altro, e avere vicine anche cantine che magari di cui si è solo sentito nominare e invece lì si trovano a portata di mano. Assolutamente vero. Di fatto questa manifestazione si incanala molto bene in un trend che vede il vino non più come una sostanza che serve a nutrirci, ma un momento di piacere se gustato in un determinato modo. Un modo che è accessibile non solo a chi è più tecnico, quindi il sommelier, ma anche al semplice appassionato che vuole poter scegliere, comprare e degustare secondo il proprio gusto e il proprio piacere. Ecco, dicevo prima che molti, forse anche solo per curiosità, andranno a questa manifestazione. Che consigli possiamo dare a chi ci va magari per la prima volta? Che cosa può aspettarsi? Che cosa dovrebbe andare a cercare? Non è facile. La manifestazione è molto molto grande perché di fatto negli 8-9 padiglioni sono rappresentate tutte le regioni italiane. Quindi è possibile effettuare un percorso regionale, scegliendo ad esempio una o più regioni, piuttosto che un percorso più adatto alle simpatie personali che abbiamo verso il vino, e quindi scegliere le bollicine piuttosto che i bianchi fruttati e piuttosto che dei vini rossi di nobile tradizione. Il fatto che non è facile dipende un po' da ognuno di noi. Per quanto possiamo essere allenati, dopo che abbiamo degustato 8, 9, 10, 12 diversi vini, il nostro palato e la nostra lingua faticano a percepire profumi e aromi del vino. Quindi il consiglio che vorrei dare è quello di porsi un obiettivo prima di entrare in fiera e quindi scegliere una serie di padiglioni e all'interno di essi una serie di produttori piuttosto che di vini o tutti bianchi o tutti rossi o comunque in crescendo, partendo sempre dalle bollicine più leggere ed arrivando al vino rosso più corposo. Però il Vinitaly è qualcosa di più, perché non è solo un insieme di tante rappresentazioni e di tante eccellenze enologiche, ma è anche un'occasione, e lo dico soprattutto per coloro che sono appassionati ma non ancora sommelier, è un'occasione per fare un'esperienza sensoriale assolutamente unica, cioè quella di partecipare a una delle tante degustazioni che si svolgono all'interno delle sale del salone stesso. Degustazioni guidate, dove quindi c'è qualcuno che può anche aiutare a capire che cosa sentire di questo prodotto che ha nella bocca. Certo, il bello è che sedendosi in questi banchi dove abbiamo diversi bicchieri per ogni vino, ogni sala ovviamente sviluppa una tematica. Quest'anno ne abbiamo una molto bella sui passiti di produttrici femminili, la domenica alle 3, ne abbiamo poi una dei soavi letti secondo il territorio 2 ore più tardi, e lunedì addirittura ce ne sono per esempio una su tutti i vini dei Balcani. E a questo punto si viene guidati attraverso un esame visivo da prima, poi uno olfattivo e infine si degusta con il supporto di chi ci aiuta a riconoscere tutti quei sentori che dalla vigna entrano nel vino. Bene, ci fermiamo per qualche minuto, a tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Torniamo in linea con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di Vinitaly, lo stiamo facendo con Andrea Fabio, coordinatore triveneto della FISAR, Federazione Italiana Sommelier, Bergatori e Ristoratori. Abbiamo visto un po' quali cose conviene cercare quando si va al Vinitaly, quindi anche cercare di prepararsi un po' prima, avere un po' le idee chiare, altrimenti si rischia di disperdersi nel mare delle proposte di questi padiglioni. Ci sono delle cose che sconsigli di fare invece? Assolutamente sì, bisogna sempre tenere presente che si si entra sobri e bisognerebbe riuscire ad uscire in maniera tale da poter ritornare a casa guidando la macchina o comunque sapendo quello che si fa. Allora qui lo faccio io un consiglio, che è quello di arrivarci con il treno, anche perché c'è un servizio ottimo di navette al di fuori della stazione gratuite per chi deve andare alla fiera, e non conviene assolutamente imbarcarsi nel traffico poi della chiusura della fiera, e che non si rischia di arrivare molto tardi a casa. Quindi prima cosa, usare il mezzo pubblico per avvicinarsi, questo è il consiglio che posso dare io. Assolutamente vero. Aggiungerei che arrivandoci la mattina conviene aver fatto una leggera colazione che però contenga comunque del pane o qualcosa a base di farina, in modo che poi lo stomaco recepisca meglio. E poi tra una serie di degustazioni, ad esempio 3 sulle bollicine e poi 3 o 4 sui bianchi, si possa masticare un grissino, un sandwich, qualche cosa di poco forte, in modo da permettere al palato e alla lingua di prepararsi alle degustazioni successive. Andando al di fuori dell'Italia, visto che c'è la possibilità di viaggiare un po' il mondo dentro questi padiglioni, dove potrebbe essere interessante andare? Cioè, quali sono i nuovi mondi del vino che si stanno aprendo e che lì si potrebbero approcciare? Beh, qui si potrebbe fare un distinguo. L'Italia ha certamente una forte tradizione più che centenaria sul vino, però non dimentichiamo che da un lato il vino nasce in Francia 300 anni fa e quindi c'è una cultura estremamente profonda, quindi qualche puntata verso la Francia la consiglierei, ma poi ci sono, ed è proprio grazie alla fatica e al lavoro di vinicoltori italiani che si sono spostati nei nuovi mondi, ci sono, dicevo, eccellenze che possiamo trovare in Sud America, quindi in Argentina piuttosto che nel Cile, se non muoversi addirittura dall'altra parte, quindi verso l'Australia, la Nuova Zelanda, dove addirittura troviamo dei vini come i Sauvignon, che sono forse tra i migliori sulla faccia del pianeta. Ecco, per concludere, diciamo che c'è anche in un padiglione c'è anche uno stand della vostra federazione, della FISAR. Cosa si può trovare a questo stand? Noi abbiamo diversi stand, tra i quali uno per la nostra rivista Il Sommelier. Abbiamo un salotto del vino dove in tutte le giornate abbiamo una serie di incontri aperti al pubblico con i produttori, che quindi ci raccontano come fanno il vino e ce lo fanno degustare. E poi nella saletta C del padiglione 8-9 ci sono queste degustazioni, prima dei passiti e poi dei vini balcanici, che sono delle chicche un po' fuori dalle normali regole del vino e quindi occasioni di avvicinamento direi abbastanza uniche. C'è un sito internet dove si trovano queste informazioni? Assolutamente sì, è fisar.com, qui trovate tutti gli appuntamenti, tutti i programmi, tutto ciò che facciamo nel nostro mondo e anche ciò che serve per soddisfare qualche curiosità oppure diventare addirittura sommelier professionisti. Grazie. Grazie a te. Passiamo adesso ad alcune notizie e per rimanere in tema ricordiamo che contemporanea con il Vinitaly, sempre in Fiera Verona dal 7 al 10 aprile, si svolge anche Soul e Agri-Food, la rassegna internazionale dell'agroalimentare di qualità. Segnaliamo quest'anno l'anteprima di Pasta Trend, nuova manifestazione che entrerà in calendario nel 2014. Ma già quest'anno in soli 500 metri quadri sono concentrati i rappresentanti di tutta la filiera e dell'indotto che ruota intorno al mondo della pasta, dalla tecnologia di produzione ai condimenti, dalla ricerca delle sementi più sane fino alle paste biologiche, senza trascurare i piatti pronti e soprattutto la pasta fresca. Cambiamo ora argomento e città. Il Biologico in Pra è il nome della manifestazione che si tiene domenica 7 aprile a Padova, in Prato della Valle, e che vede protagonista il Biologico. Numerosi sono gli stand di agricoltori e artigiani, ma anche i laboratori. Spazio quindi per l'intera giornata ai giochi tradizionali in legno, ma anche gli animali, capre, pecore, galline e asinelli. Tra le altre iniziative citiamo gli incontri su stili di vita sana e degustazioni di centrifugati e crudité a cura dell'associazione Oltre il Diabete e la distribuzione di pasta madre da parte dell'associazione Biorec alle ore 16. 10 milioni per le avversità atmosferiche, in particolare a favore delle oltre 70.000 aziende della regione colpite dall'emergenza aflatossine a causa della disastrosa siccità dell'estate scorsa, e altri 12 milioni per l'irrigazione. Sono queste le risorse che la Regione Veneto ha accantonato nel bilancio di previsione 2013 da poco approvato. Abbiamo ritenuto di supportare l'asset economico prodotto dall'agricoltura, ha detto l'assessore Franco Manzato, con la previsione di finanziamenti da indirizzare alle aziende danneggiate da eventi che in più di qualche caso rischiavano di compromettere la stessa sopravvivenza delle aziende. Un'altra dozzina di milioni pensiamo di indirizzarli a integrazioni del programma di sviluppo rurale per implementare le infrastrutture di irrigazione, cercando di colmare le carenze e di migliorare l'esistente. L'assessore Manzato ha anche ricordato come l'intervento pubblico da anni si traduca in un significativo contributo sui premi assicurativi per l'agricoltura. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima. Vi ricordiamo che ci potete riascoltare in podcast sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.